Gianni. Thank you. Salve. Ciucucciu, buonasera, ciucucciu, buonasera, buonasera, ciao Gianni. E beh, Antone. Ehi, dimmi, ciao, buonasera. Dammi quattro di segnale, fa la cortesia un po'. Fa favore. Schiaccia e te lo dico subito. 2 minuti. 9:20. Aspetta. E adesso? 9:30. Davvero? Davvero. C'è 9:30, ok, dai, va bene. E via, a posto. Che regale. Sì, che è un marone mi questo pompugno, non fa. Ok, ma noi quanto sto arrivando, fa la cortesia, vedo un po'. 9:30 sì, io fra. Monte. E via. E di più non fa. E che cazzo di più? Cazzo la crisi fa. Stavo chiedendo, a vedere, ci andava di più, invece no, va bene così, quindi dai, ok, andiamo a ciucciu, senta quello comunque, lo sto dicendo io. Un pugno ubriaco fragico. Magari, veramente magari. No, volevo sapere, Antonio, se andava bene, capito? Sì, ho capito, non ti preoccupare, tranquillo. Cavagava, allora funzionava bene la situazione, dai. Sì, tranquillo, non ti preoccupare. Sempre con la penna di gomma, che è tabù. Di gomma, è sicuro. C'è la penna di gomma, Antonio. Io sono andato di gomma se per questo, comunque sia, quello che è. E già va bene per essere un'antenna di gomma, dai. Ma giù di caucciù non l'hai. Cosa? Io ce l'ho di caucciù. È vero? Sì, è vero, ma questa è di quella gomma morbida. Ah, così è. E allora, scommetto che mi ascolti anche tu adesso, boh. Sì. Io stamattina anche alla Landriga arrivavo. Addirittura. Hai visto? Eh? Hai visto bello bene? Che se no ti faccio scherzare. Pure alla Landriga arriva, te immaginai? Sì, con l'antenna di caucciù è uno scherzo arrivare alla Landriga. Con l'antenna di caucciù che dici tu? C'è gente che sta parlando sul 4.3 e 300, che sono abusivi, che parlano mattina e sera, lo sai, sì, e te sei accorto? No, non me ne sono accorto, perché non sto più ascoltando, no, non me ne frega nulla. E vabbè, comunque sia, sono abusivi, sono, hai capito? Quanto sto dicendo? Inoltre che... hai capito? Dopo non rubare agli altri, quando poi gli altri entrano a usufruire delle frequenze che non mi frega proprio niente, la verità, comunque sia, tutto lì. 4.3 e 300, la frequenza è quella. Lasciali fare, già li pizzicano. A me non mi frega niente, la verità. Io già lo so che la frequenza mia è quella. Il 4.6.081.25, quindi a un certo punto non me ne frega proprio niente. Dell'RPD, poi dopodiché se la girano gli altri, chi se ne frega? E vedrai come li pizzicano, a me lo stesso mi hanno traslato da un'altra parte, mi hanno traslato, vedrai come li pizzicano. Vabbè, ma non penso che vogliamo, tranquillo, a pizzicare a loro non ne farà proprio niente, cioè la verità, sta tranquillo, Natalie, è meglio un'altra frequenza che l'RPD, questo è poco ma sicuro, quindi a un certo punto non mi fate nulla. vabbè. Già ripizzicano, ne hanno pizzicato altri, non pizzicano questi qua. Non c'è problema. Parlino lì loro che dopo vedrai cosa dici, lo gonto. Vabbè dai, ci sentiamo, io me ne passo in QRX. D'accordo, ok, ciao Natali, alla prossima ci sentiamo, stammi bene. Ciucucciù. Oh boh, non sei morto ancora. Ciucucciù. Allo. Ciucucciù. Di che stanno chiamando, Antonè? Chi? A me o credevi? No, non lo so, no, ero nella tua stanza, sento qualcuno che chiama, tu non lo senti. Chi è che chiama? Avanti. Marco lì, c'è l'antenna sorda, Pompugno. È sordo come lui con l'antenna. Chi vuole entrare su 10, avanti. Adesso lo sento la verità. E prima no. Oh, era intorno al Santiago 9, intorno al 9 era, non era né Emanuele né questo Lecco, non so chi fosse, vabbè. Attenzione, beh, Marco lì. Chi è? Mobutti. Torino, ciao. No, ma se eri tu o Lecco non si capiva nulla, eh. L'ho fatta apposta, così non mi fate niente. Google, ciao. Ciao Pompuzio e Emanuele, pochi c'erano, non lo so. Ero in cucina che stavo mettendo a posto. E sentivo Pompugno che prendeva la portante, ululava la luna e qualcuno che tipo intorno a 9 che chiamava. Ma te eri tu? No, io ho appena acceso adesso. Ho sentito a voi, sono entrato con Lecco. Allora era un altro, però lo mandi avanti e non riprende, allora niente da fare. Antoneddu. Dimmi tutto. Riprendi, c'eri tu che chiamavi, io adesso siete in tre almeno, io sto facendo roba, devo anche uscire. Ciao Tony, buonasera, mi sentito? Dopo un bel po', la verità. Troppo poco, cosa? Io lavoro, mio ragazzo, anche se ho in pensione lavoro, non so come voi, che crescete nel letto, tutti non si vivevano, che fate il pisolino, non ho mangiato, invece io da una bacca all'altra, non sto mai fermo, è raro che io entro, 10 minuti poi, niente, devo rifare quello che stiamo facendo. Magari così fosse, come dici tu, grazie a Dio, magari, ma è diversa la questione con me. In pratica io la mattina appena mi alzo, penso al lavoro, dopodiché se qualcuno c'è qualcosa, se no niente, se no c'è la piglia il culo a un certo punto e passa buone feste. Il discorso è quello. Come gli apparati che ho io, la frequenza è questa, eccetera, eccetera, tutto lì. Come dicevo, tre apparati a un certo punto, vuoi quello, vuoi quell'altro, tutto lì. Emanuele sì, Emanuele non c'è. Caro Antonello, io la mattina 4:30, 5:04 sono in terra. Emanuele ti può dire qualcosa, i messaggi che gli mando del buongiorno. Non mi alzo tardi come vi alzate voi, ma io è un'abitudine, non è perché mi alzo presto, perché mi devo alzare presto. Mi faccio tutte le mie cose, quello che devo fare, poi con calma verso le 8:30 esco. Quindi, e ripeto, sono sempre in movimento. Quindi non sono una persona che dice non è così, ma anche tu presa a me sì, io ti posso dare testimoni come sono da presto in giro fuori e che mi alzo la mattina. Se poi ti mando un messaggio la mattina alle 4:30, a me non vedi neanche la mi alzo. Avanti Marco lì. Antonè, ma poi quella famosa che contenzioso con Usai, com'era finito? Guarda, la verità mi viene a ridere, la verità. Perché dovevo ritirarmi, ho dato 9.000 euro, mi sono ritirato, ho dato 9.000 euro di buffi, di niente, proprio niente, la verità. Quindi a un certo punto la lascia perdere, quindi cosa ho? È chiuso con quello, a un certo punto basta, qua non conviene più. Se non mi sentavo a lavorare, ti giuro, se, in qualche posto di lavoro, a un certo punto, che peggio di lui, lascia perdere, a un certo punto ci vado a far culo immediatamente, mi faccio i soldi, boh, ogni giorno, i soldi, ogni settimana, poi se non già lì, chi se ne frega, dico. Ma infatti Antonè, per avere accumulato un credito tu del genere, no? Che lui te ne doveva così tanti, è come che avessi lavorato anni e non ti avessi mai pagato. Lì dopo il primo, secondo mese che non ti paga, bisogna mollarli assolutamente, anche già dal primo in realtà. Non che rimane lì tanto tempo sperando che paghi e poi non pagano. Poi vabbè, l'avevi trovato giusto mi, per carità. 89.000 euro sono, l'esattezza, tondi tondi, te lo faccio vedere, ed è quello è del sindacato, non roba mia, del sindacato, non è colpa mia, è colpa del sindacato, quindi il sindacato vuole preso bruciato. Da quando esiste il sindacato, guarda, nel caso dovesse, per dire, che ti dice guarda Antonio, guarda ci sono io come sindacato, no, va a far culo, tu il sindacato mi ha detto, va a cagare, il discorso è quello, mi hanno fregato 89.000 euro, hai capito, il sindacato, solo il sindacato. Come fa il sindacato a fregarti 89.000 euro? Ma non di cazzate tanto a me. Allora ti faccio vedere, io poi non te lo faccio vedere, cazzo. Tori, dimmelo tu, l'avvocato del sindacato, ti faccio vedere il foglio e te lo faccio vedere. Anzi, te lo posso anche mandare gratis, come cavolo vuoi tu. Ma bruciato, sei bruciato, ma bruciato, sei messo d'accordo con io come principale, ma bruciato, boh, basta. Puoi dire, Tony, quello che vuoi tu, perché così tu le cose non le sai, però il problema è quello. Ti do le coppie e poi mi dici tu, allora pensai, Antonello è un coglione, perché cazzo poteva denunciarlo da prima, a un certo punto, non da... purtroppo sai cos'è capitato? Poteva avere questi soldi qua, non io, no. Emanuele, ho dovuto fare la denuncia anch'io, perché in pratica ho fatto il testimone, lui in pratica lavorava lì già 2 anni, cosa del genere, mi sembra 2 o 3 anni, quello che è. Ho firmato, tac, e mi sono trovato da solo, il discorso è quello. Però io non ho ritratto niente, nulla, manco una lira, nulla. Il discorso è quello, Tony. Ma te lo faccio vedere, va, Tony. E tu puoi dire, va, mi dirai, sono un coglione fatto, questo, e come si dice. Allora, se l'avvocato del sindacato, ovviamente, come dici tu, si è venduto, l'avrà preso, non so, 2-3 mila euro, che sono anche molti, ecco, non gli date niente, quello vuol dire vendersi, eccetera, eccetera, date 2 spiccioli. Però non esiste mica che si è preso tutti i soldi, come hai fatto capire tu più o meno, Antonè. Però, che poi il sindacato, avvocato sindacato, che sindacato era? CGL, CISL o Willy, cos'era? Ciao. Mi sembra che era la Willy, se non mi ricordo male la verità. Vabbè, intanto lo faccio vedere così, e poi lo vedrai tu. Adesso è che 2 secondi ti posso dire una cosa del genere, perché non mi ricordo più la verità, comunque sia. Però te lo faccio vedere, ok? c'ho tutta la documentazione, hai capito? Lo faccio vedere e poi vedrai tu cosa è. Tutto perso, tutto veramente perso. Sai chi ci ha guadagnato? Manuele ci ha guadagnato, Manuele è perso. Perché lui era in pratica stato prima di essere, cioè io non ero assicurato, lui sì, hai capito? Non era assicurato, peggio per te, è perso il tuo canto, è perso. Anzitutto hai perso tutto il TFR, tutto quanto avrei dovuto, dopo un anno, due anni debbono conto sul TFR. Seppur non era assicurato, peggio per te, Antone, hai perso capo e cavole. Sei tanto intelligente e poi alla fine, non lo so che io avanti. Oggi sono fuori il gambo, per carità. Ciao Tony! Ciao! Ciao Antonello! Ciao a te! Buonasera a tutti, dove partiate per farvi sentire, ancora la zona qua. Ciao Tony! Bene ti arrivo con le parti alte. Stai scando tutto un po', dovrò andare a bruciare la panica. Addirittura! Dai! E vabbè, dai, io quando sento queste cose dico, boh, mi vengo a pure ridire, dico, ma quando mai, insomma, si va a fottire così. Sì, usai già era l'offia, comunque la conosciamo, però Antonello arriva in anni, in chi, anni. Quanti anni c'eri, Antonelli? 12 anni c'ero. Quanto? 12. Aspetta, 12 anni, 86.000 euro, non dire cazzate, dai, fai da bravo. Non dire cazzate. Forse è meglio, va, Tony, mi rifai un punto di vergogna per come stai dicendo adesso. Non ti voglio offendere, la verità, perché c'è anche scritto nel foglio. Quindi io ti porto ti do il foglio, te lo guardi bene, tu lo sai che tu sei stato sindacalista, quindi a un certo punto te lo faccio vedere. Sono 86.000 euro, anzi forse anche di più addirittura, non so l'altro. E più c'ho anche il, come si dice, la facoltà, c'ho la specializzazione, non me lo ricordo, Tony, perché sono passati tanto tempo, la verità, perché mi si è sfuggito davanti alle balle, che a un certo punto ho lasciato perdere, ma però te lo faccio vedere, Tony, e tu vedrai che a un certo punto lui dirai, cazzo, Antonio c'è una ragione, perché se ti dico una cosa, lo sai, Tony, se io ti do, è come dato il baracchino, se ti dico, ti do il baracchino, guarda che il baracchino dà questi vatti qua, da questi canoni qua, cioè non me lo sto inventando, quindi a un certo punto è la stessa identica cosa di quello che ti sto dicendo io. Questa storia qui, in pratica c'ho i fogli a casa, hai capito? E quindi te lo faccio vedere e poi ti dai anche tu, cazzo, sono veramente uno stronzo, quello che è, cioè, a un certo punto. Però mi hanno dato in pratica, a parte quello, mi hanno dato anche la, come posso dire, adesso mi viene in mente il nome, la fanculo. Vabbè, se mi viene in mente il nome, ti do l'icola. Antone, allora, io ti ho detto queste parole poco fa perché ti spiego. A meno che tu queste cifre le hai ottenute con numeri falsi, nel senso, non da te o chi ti ha fatto i conti, che ha notato ma con centesimo di stipendio e ha calcolato sia 12 anni di stipendio zero e più 12 anni di TFR, perché io in 25 anni dove ho lavorato un semestre, sono andato in pensione, mi sono toccato 37.000 euro, non mi sono toccato di 12 di anno, in 25 anni sono più di 12, caro Antonello. quindi non so che calcoli ti ha fatto questo qua, a meno che tu non l'hai preso manco 5 lire, ti avrà calcolato, non so, 1,5 milioni, 1,6 milioni, allora c'era la lira a quei tempi, non lo so, e quindi avrà fatto un conto del genere più o meno, poi riportato in euro, l'euro frega tutti, già lo sai. Ma boh, comunque ripeto, sì, i conti io me ne so fare, perché ripeto, tu pensi che è uno stipendio all'anno, quindi ti fai subito un coso di conti e lo sai già com'è. Se non sbaglio sì, la voce di Francolino, Franco, attenzione Franco, ci sì, boh, Bruno riprendi. Ok, io non lo so, però 89, quanti? 12 anni. E secondo me, a me, il 12° giorno che non avevo dato il cartuccio, ma abbiamo vinto. Avanti, chi è rimasto che deve girare? Tony, mi sta sentendo meglio adesso? Cappa, fondo scala, spostati. Adesso sono su alle quince. Arrivi forte qua, Stamattina è successa una cosa strana, ho incontrato Natalino a Platamona. Lui è partito in macchina per salire a Sassari e avevano tutti e due andato una calamità assoluta e tutto. A un certo punto io lo sentivo basso, lui non mi sentiva quasi niente, più o meno secondo la zona. Dopo 5-6 km non ci sentivamo più. E lui continuava a dirmi, è l'antenna tua, la mia famiglia è l'antenna tua. L'antenna tua, a me tutti mi sentono dalla macchina. E quindi praticamente cosa è successo? Ti è volata l'antenna a te o a lui? Lui dice che è l'antenna mia che non andava. 5-6 km tutta la macchina dovremmo sentirci. Lui è sparito come segnale e io non sentivo quasi niente, lui un po' mi sentiva. Però voglio dire, io adesso parlo con molta gente, mi sentono dappertutto. E lui stamattina mi ha detto, l'antenna tua perché è corta, la mia è lunga. Ma io ho l'antenna calare di quelle, ho la carica e come avere un'antenna alta, E cappa. Io c'è ancora Marcolino. Marcolino. Sì, guarda, è capitato anche a me con un'altra persona. Tra due macchine, antenna a lunghezza media, fai un metro, in questo caso era un metro la mia, l'altra forse 1,20. E siccome l'antenna in macchina non è sul palazzo ma è quasi a livello di terreno, tra virgolette, bastavano pochi chilometri, bastava una collinetta, bastavano dei palazzi in mezzo, e insomma come si perdeva la portata, non dico ottica, ma la portata proprio grossomodo libera che andava subito a sciamare il segnale, questo sempre con i 3-4 watt di baracchini omologati, Invece una cosa è con l'antenna sul tetto, è già tutto diverso, capito? Però in macchina, a seconda di dove sei, ti perdi il segnale con l'interlocutore, capito? Bruno, sei Bruno? Sì, no, perché adesso erano pochi chilometri, figurati che io ero fermo alla rotonda e lui non era neanche all'arena del sole, già non ci siamo messi, non ci siamo messi. Non lo so, vabbè, io comunque adesso che lo dia anche qua in macchina, non lo so niente, che tra l'altro non farà la pena per la più, anche se quello là ha il microfono, l'altro parecchio è un microfono preamplificato che devo tenere al minimo perché quando sollevo mi sentono male, però nonostante tutto come fedeltà appena forse anche più chiara, più forte di questo. Cappa. No, io mi ricordo in certi film americani, tipo quello del Radio Killer, quella roba lì, dice che portata ha questo apparato, dice 20 miglia, roba del genere, no? Solo che lì, sai, parlano in quelle zone tipo Arizona, dove c'è praticamente migliaia di chilometri piatti, senza nulla, senza colline, senza palazzi, sai, quelle zone americane molto aperte, lì posso capire che i baracchini tra camionisti, tra anche veicoli, macchine, no? Facciano un saccaccio di chilometri, però con l'orografia nostra del terreno è un ciabotto, Vabbè, come il discorso madre, no? Quando si è sul mare, io quando andavo al largo ho con tanti video, una volta anche ho barcato la macchina e ho parlato un po' con tanti di quei paesi che atterrano, probabilmente c'è una riflessione di onde radio superiore in zone libere o in zone di mare. Allora, vabbè, comunque, allora Antonino sento che siamo in linea d'aria, siamo un po' di chilometri, però siamo di fronte. Sono valerato, ho detto lei qui ce l'ha, ma ti mecchino così è. Dopo forte ti ho sentito ciò che ho preso l'onda. Hai detto le querce più o meno, mo te bianchino. Oh, viene questo, un bianchino, uno schiaffo, insomma, su lì, sulla campagna, anche la notte di solito andava a volare. Va bene, tutti passano, guardano, guardano, mi sono di Comacco, perché c'è un viottolo dove c'è tutte le file qui vicino, dove c'è gente che... Dunque di capire che sai dove sono io, l'antenna, il palo è in, da terra a parte, se mi tripa lo basta, no, non è che sono su un palazzo che ho l'antenna bella alta, quindi ti sento fortissimo, ti sento comunque. Sento secondo, senti. Questo è 4, 6, 118.65. In pratica sarebbe la Corsica, per se in questo momento. Dimmi tu. C'è una cosa normale, dimmelo tu. Niente, in chiaro. Dimmelo tu, c'è una cosa normale, Cioè, parlo, io non parlo, parlo. In che mera è la vita? In che mera è? Allucinate qua. Mattone, ti sembra giusto? Ci fa ascoltare cazzate degli altri che a me proprio non mi interessa, c'è un piccolo QSO con gli amici qua. Simone, che registrazione del premier che a me non me ne ha fatto nulla, né a me penso neanche agli altri, qualcuno vuole dire qualche cosa. Avanti Gianni. Non è registrazione, sono in diretta, il discorso è quello. Hai capito? In pratica la Corsica, in diretta, che parla, non sono registrazioni, Tony, il discorso è quello. Ma stai parlando pienamente d'accordo, meglio ancora. Stai parlando con loro ma non con noi. Con noi c'è un QSO che praticamente sono in parcheggio a ascoltare quello che stai dicendo tu e quello che stai dicendo quell'altro. E a noi proprio per l'anticamera, ma così la fuzzi. Se non vado a ratto ci do Gianni, Gianni avanti. Non va più nessuno. Bruno riprendi. Antonello, penso che l'hanno fatto uscire di testa. Marco Ricci, sì. Ma Gianni dove era in macchina? Io non l'ho sentito col segnale solito. È forte qua, mi è sembrato Gianni, perché ha superato Antonello come niente fosse. Magari rimarrà mobile, poi lo rilanciamo. Comunque Bruno, sì, hai ragione, quando sei in imbarcazione in barra nautica lì anche in 27, l'acqua fa l'effetto specchio e è un bisù, anche in mare aperto tra due imbarcazioni sicuramente fanno un bel chilometri. Poi con la propagazione non ne parliamo. Vai Bruno. Ho avuto grande esperienza su quell'app, perché ripeto, vabbè, infatti ho navigato tanto e il mare non è certamente barriere. Infatti mi rendo conto io adesso, parlando da casa, che sono costretto ad usare una boomerang sul poggiolo, perché ho quattro piani sopra, il palazzo di cemento armato, sono tutto chiuso e quasi non mi sento una volta a volte, ma trovo difficoltà anche a pochi chilometri, proprio perché c'è questo. Quando abitavo al monte, io avevo 5 piani sopra, e sopra la palazzo avevo delle antenne, ho avuto delle antenne allora, per quei tempi erano delle antenne, per la classifica. Io comunque, più che altro modulato, ma almeno io penso per 15-20 anni con una Super Vengebus, allora le antenne buone erano quelle. Ma non avevo certamente bisogno di lineare, anche se a quei tempi c'erano i giambo, tutto quello che vuoi, aveva anche due belle apparecchiature, mia madre avesse dato, mia sorella aveva 50 lire, mia pelle anche 50 lire. Nel frattempo avevo smesso di molurare, ho buttato via tutto. Era una pacchia, adesso purtroppo dove abito qualche incazzatura non la prendo, perché molte volte a pochi chilometri non mi sento. Bruno, ci ricordiamo anche le vecchie antenne che non valevano niente, uscivano bene, la Grand Prix e la Stardust, erano ottime antenne se ricordi. La Grand Prix l'ho buttata alla vita, figurati che la Grand Prix, Tony, io mi sono trasferito 3 anni fa a casa nuova e ce l'avevo in soffitta, roba di 25-30 anni, quando mi sono trasferito 3 anni fa, anche io sono salito in soffitta a portare via tutta la roba, io la Grand Prix l'ho vista, incerottata, imballata, a posto, appena l'ho portata a marcia, assieme a tanta roba e sicuramente anche qualche... c'era una matassa di carro, addirittura l'RG8, che lo usavo per la direttiva, ma tanta quella roba, ma ho buttato via tutto, io non sapevo neanche, e in frequenza era rimasta gente. Io poi ho incontrato a Franco, ho incontrato a Natalino, ho incontrato a Marino, e mi hanno detto sì, ci sono un paio di amici, se vuoi entrare, e lì ho comprato un baracchino per questo per la macchina e un altro per la casa, proprio ripeto. Chissà altro materiale ci ho gettato, c'erano le scatole, di quei tempi già non so che erano altro stati, tu arrangiai tu. Io se trovo l'RG8 o l'RG213 a un buon prezzo, un 50 metri me lo comprerei. Avanti Marco lì. Sono rientrato. Allora c'eri tu poco fa. Io stavo provando un'antenna, ma c'è bucialissimo con questa registrazione, che non so cosa stava facendo, allora ho staccato tutto, dai. Stavo provando la Turbo 2001 da casa. Non volevo passare per scemo, detto, ma a me mi è sembrato Gianni. Vabbè. Comunque, ciao per il tratto. Ciao a tutti, dai, ben sentiti. Ciao Brunetto. E chi è questo qui? Lo sento basso, sul fondo tu. Ce l'hai a tiro di schioppo. Basso mi senti, adesso come mi senti? Sento un bisbiglio, ma dove sta parlando da... Cos'è, Germania lì? La massa delle varie. Sì, guarda a segnare, ti sto bruciando l'antenna. Cappa, Bruno, ti interessa una Turbo 2001 che la sto vendendo? Ma che è quell'altra? Con base magnetica e tutto, la sto vendendo. Non c'ho questa, lo sapevo, è già troppo magnetica. Quando ti fermi quella lì per fare i DX e commetti una mantova. Vabbè, una mantovana. Vabbè, chi la vuole se la sto vendendo, va. Con base magnetica e tutto. Ok, ma io per quel poco che la sto usando questa, che va avanti, ma poi anche l'altra, questi giorni voglio entrare con la vecchia antenna, la vecchia Colibri che ho usato nella macchina, quei tempi che ce l'ho ancora conservata, l'ho usata da poco, la voglio rimettere, l'ho usata da casa, la voglio rimettere in macchina con questa base magnetica per vedere, perché quell'antenna lì andava molto bene, quella gialla, se ve lo ricordate, la vecchia Colibri. Ma la Colibri ce l'aveva flessibile la polizia? No, la Colibri è quella gialla, Tony, che si toglieva la carica all'interno, che è vuota, la smontavi e toglievi la carica lunga. Qual era quella che sembrava la cosa della polizia bianca, piccola? Quella era montata su un 127, vero Bruno? Sì, l'ho avuta sulla 127, ho cominciato con quell'antenna con la 500, figurati, già è un giorno una cosa, la 500 l'ho comprata nel 78, e tuttora ho l'attacco, per la grondina, ve le ricordate le grondine della 500 vecchia, no? Che si attaccava alla grondina, eccola con l'attacco. Sì, ma non mi avete detto come si chiamava quell'antenna, che non me lo ricordo. Colibri. Io la Colibri, quell'altro non lo so. Bella il tempo della polizia, sto dicendo a me. Non anche degli attacchi con le antenne. Non mi ricordo, ho capito quale stai dicendo, aveva una specie di mollone non troppo grosso giù alla base. E quello ci va un bel forte la macchina stesso. Sulla 127 c'era pure. E sulle macchine civili, che praticamente, vabbè, in borghese. Cappa. Anda a me, Pupu, ti sei baciato qui su PMR? No, niente. Quattro, sei, 118. Fondo scala, allucinava, 118.89, allucinava, puglia, porca miseria, mai sentito una cosa del genere, guarda, una cosa allucinante, guarda, i francesi, come se l'avessi attaccato la porta di casa, guarda. Ma non ce ne frega niente, Antonecca. E vabbè, lo so, a te non te ne frega niente. Ma a me invece me lo frega, sì, il discorso è quello. Dicevo, boh, cioè è una cosa un po' strana la verità, dimmelo tu, un'antenna che si è pezzata un metro dalla Mantova, che io parlo cioè che ascolto tranquillamente la Corsica, qui da casa, figurati tu. Di solito non vuoi sentire mai con cane, la verità con PMRMI, io sto parlando di frequenza PMR, non sto parlando di LPD, PMR, è una cosa totalmente diversa, vabbè, comunque sia, vabbè, ognuno dica quello che vuole, ma comunque sia, gli ascolti sono quelli, ma non posso fare. Antonetto, lo dico con calma, a noi non si deve futtir nulla, perché sono entrato a fare il piccolo questo con gli amici, uno, accendo poco, anche tu metto io, dopo tanto ti si risente, il PMR ce l'abbiamo quasi tutti, ce l'abbiamo, ma io ce l'ho smontato, l'ho buttato alla parte che non me ne ha futti nulla, per ascoltare gli altri che tu metti, a me non me ne frega niente, perché io sono entrato per parlare due paroline con gli amici, io spiego tutto e mi ne da fare, chi si rompe di prima, cioè, penso che non solo a me, ma anche gli altri su questo canale, non è che interessa più di tanto ascoltare queste cazzate, e boh, avanti già. E vabbè, io poco fa stavo provando l'antenna e ci ho messo con questa cosa qua e non ci sono riuscito a provarla, vabbè, comunque l'avevo messo il PL e penso che vada bene, se mi hai sentito vuol dire che andavo. Io ti ho sentito, infatti ho detto poco fa, mi è sembrato che c'era Gianni, infatti ti ho chiamato. Avanti Bruno. Che stai parlando tu? Quanti sentivo sveglio? Mi cazzate, ma piacere, mi. Allora, in pratica, io stavo ascoltando la Corsica, perché la Corsica più che altro, nel canale 10 in PMR, che la frequenza è questa, 446.118.75, chi ce l'ha, ascolta, chi non ce l'ha, se la prende in culo, il discorso è quello, altro non mi posso dire, tutto lì. Discorso una cosa, non ti offendere, la birra si beve con la forchetta. La birra non è che si beve con la forchetta, perché cazzo, l'audio con la forchetta non si beve, già lo sai anche tu, l'hai sentito anche tu, io non parlo il francese, quindi a un certo punto la frequenza te lo sto dicendo, 446.118 punto 75 di PMR, se puoi ci beccare, ebbene, se no la forchetta con la birra basta andare alla cosa, alla Crai, c'è, come si chiama, la birra a 1 euro, quello che è, si può bere, se non c'è quella c'è 50 centesimi l'acqua bocchetta e si perde quella, a un certo punto. Non sto dicendo perché hai sentito anche tu l'audio, non è che me lo sono inventato, il discorso è quello. Mi hanno tirato per pazzo, quindi vabbè, pazienza, volevo ti dica io non parlo francese, quindi a un certo punto non so le cose, sono un macurio, sono scimmiliate, il discorso è quello. Vabbè, tutti spariti, sono qua, non ti preoccupare, non sono fuggito io. Antonio, più che altro era per salutare, perché io devo fare una mini spesa, devo uscire, e quindi volevo fare il corretto e salutare tutti. Ciao Antonio, poi non so se gli altri abbiano chiuso e non sento più nessuno qua. K, quindi buon proseguimento di serata e buon tutto, dai, sentiamo. E ti d'accordo, vabbè, sentiamo, dai. A domani al limite, là, non c'è problema. Ho preso proprio il punto proprio veloce per la fotografia, non perché se ne scesa dal fumo. Vabbè, adesso aspettiamo un pochettino, poi si vedrà. Aspetta che non stavo seguendo. No, volevo dire, ma tu questi li senti, stranamente senti questi in PMR, tu vabbè sei in alto, però conta che secondo me non è PMR normale, mezzo batte, quelli stanno pompando di brutto magari. No, te lo sto dicendo, 446 118.75, te lo sto dicendo, non la prima volta, già lo sai anche tu, anche con quell'apparecchio che c'avevo prima, che poi ho bruciato la metà, la coppa la mia, ma non ci posso fare niente, comunque sia, io li ascolto perfettamente, quindi cosa devo fare? Cazzo, mi invento, se stavo parlando, cazzo, cosa faccio? Parlo in francese secondo te, non esiste, capito? Se dico una cosa è una cosa, non è che me la invento, il discorso è quello. No, già ho capito che le dicevi, ma non mi chiedevo come fai a determinare, a sapere che loro hanno 500 milliwatt e non di più, perché ti ho detto magari stanno pompando di brutto, magari ci sono dei veicolari messi sulle canali PMR, come facevamo tutti qua, e cioè, tu hai per scontato che hanno mezzo watt, e in base a quale evidenza? No, non ti ho detto che hanno mezzo watt, il discorso è quello, hanno i watt che hanno, la verità, perché non lo so questo, la verità. Comunque l'apertura della propagazione in pratica parte dall'1:30 di sera fino a quest'ora qua, dopodiché prende e scende a zero e tu te ne sei accorto parecchie volte, già te lo ricordi, quindi a un certo punto adesso per dire non c'è niente, sai, poco fa c'era, arrivava a fondo scala, si sentiva benissimo a un certo punto, dopodiché adesso non c'è più niente, quindi la propagazione è finita a zero, hai capito? Cioè mi dovevi sta salendo, guarda, non sono bugiardo, perché non sono bugiardo, grazie a Dio. Adesso la propagazione è bassa, però te lo sto dicendo, non sono bugiardo, perché forse sono l'unica persona, cazzo, che non lo so, forse per culo cosa del genere, che riceve una cosa del genere, con l'antenna piazzata 2 metri da sola la matto, va più giù, figurati tu. Comunque sia, vabbè, adesso non sento più niente, però comunque sia, te lo sto dicendo. Piace e si sente. Dimmi quello che ti piace, se avessi avuto una direttiva a posto della verticale, sei stato tutti i giorni parlando, mattina, sera e notte, questo è poco ma sicuro. Oh sì, ma ci credo, io non ho detto che sei bugiardo, poi li ho sentiti, no? Li ho mandati e li ho sentiti, tutto lì. Bene, Antone, dai, sentiamo in migliori occasioni, magari quando ho un po' più di tempo, magari ci vediamo, ci beviamo anche una cosa, ok? Quando, tipo pomeriggio, roba del genere, che adesso finisco di fare un po' di spesa e così ci metto l'autorento. Ciao Antone, buona serata, buon tutto, saluta Simona e Giovanna, ok? Ci sentiamo, ciao. Io credo che... Va vabbè, non c'è nessun problema per quello, non ti preoccupare. Comunque io auguro quello che ti mi ha detto di bere di meno, io mi auguro invece che lui beva più succo di frutta, che è meglio, così a meno di sia per la memoria più che altro, eccetera eccetera, altro non li posso dire. Ah, quindi la verità, perché io di audio non li posso dire altro, la verità, quindi eccolo qua. Io sono sbronzo, ecco. Accuridi. Eccolo qua, vedi? Quindi in pratica io mi auguro. Senti? C'è un ponte in qua, infatti c'è questa frequenza qua. Tutto lì. Vabbè, comunque sia, quello niente. Non voglio avere problemi con nessuno, comunque sia. C'ho ragione io, grazie a Dio, sono una persona coerente, eccetera, eccetera, e sono tranquillo. Dopodiché gli altri che si attrezzino con le antenne e con quello che gli apparati, il discorso è quello. Basta solo una verticale e un portatile, non costa nulla, della Baofeng, non ci vuole nulla, non ci vuole questo granché. È una vergogna, eh? Antonello è sbronzo, e questo se l'è inventato, il bello è quello, eh? Ogni vergogna, cazzo. Carità, cazzo, guarda, mi sei vergognato, guarda. Questa è la cosa che a me, fate per la vergogna. In diretta, no, in diretta. Segnale, bubu, fondo scala, so, cazzo, 4, 4, 6, 118, 85, crocro, non ci arriva nessuno, solo io ci arrivo a casa. Oh, Antone, oggi non riesco a uscire, porca miseria, mi è voluto andare in bagno all'ultimo e forse non è finita, c'ho un po' di mal di pancia. Ti volevo chiedere. Dimmi, sono qua, tanto sono in chiaro, dimmi tutto. è una cosa allucinante, guarda, mi sento in chiaro, sai, in chiaro, tranquilli, boh, mica me lo posso inventare, no? Già sentiti? Sì, Antonio, hai già compreso, già lo so che le dicevi. Ti volevo chiedere, l'898 a te, ti funziona ancora o si era guastato del tutto? L'898? Ti funziona? L'898, il Ixen. Non capito, l'898 Ixen che cosa? Allora, il Leixen 898, tu ce l'avevi, ti funziona ancora o non più? Funziona, il problema è solamente il c'è un transistor bruciato, quello dell'audio, e basta, però ce l'ho, se lo vuoi te lo prendi, no, non è quello il problema, non mi cambia la vita a me, capito? Se lo vuoi te lo prendi, si è bruciato da solo, la verità. Quindi se lo vuoi, te lo do, e a me non me ne frega niente, e tu glielo sai. Sì, no, non per quello, Antonio, perché io ti ricordi quell'altro, come si chiamava, il... porcaccia miseria, non mi viene il nome. Quello nero con i tastini rossi, quello VU, quello lì. Quello io non lo sto più utilizzando, è definitivamente accantonato. Se ti dovesse servire io te lo do e te lo usi. C'ho anche due microfoni, capito? Quello un po' più rustico e poi quell'altro più fighettino con i tasti, capito? E funziona. Naturalmente potrebbe prendere un po' di battimento sempre dalla radio FM, presumo, però funzionava, Lo devo riprovare. Tanto io non c'ho più antenna, non c'ho più nulla. Per via dei lavori ho tolto tutte le antenne, quindi è inutile tenerlo anche fermo, K. Ah, QYT si chiama, l'8009, QYT 8009, sì. E non lo sto più usando, Antonio, e non ne ho più voglia nemmeno. Sono qua a casa con l'apparecchio lì, te lo sto dicendo. Quindi, come ti ho detto l'altra volta, a me mi interessa solamente gli apparati, se uno non serve fa niente, li vuole buttare, è un discorso. Anche se non funziona, eccetera, eccetera, li uso solamente per pizzi. Il discorso è quello, non sono di quelli che strani che prendono. Cosa ti posso dire? Vedo un apparato e a un certo punto poi vanno su marketplace e se lo vendo. No, non sono di quelli io, e tu mi conosci più di me da parecchio tempo, il discorso è quello lì. Se io chiedo come ho fatto l'altra volta su Facebook, una cosa che mi interessa solamente apparati che non funzionino, spiegato per pezzi gli ho detto, spiegato, poi se pure funziona, ho detto, se tu hai detto non te fa niente, funziona e ce lo vuoi buttare perché magari è un roba di cose, qualche tuo parente, cosa del genere, non sai cosa fare, eccetera, eccetera, eh? Allora il discorso, ho detto, me lo metti in mezzo, va a far culo, ho detto, tutto lì. Ho scritto così, non ho scritto altro, io non ci voglio guadagnare niente da nessuno, il discorso è quello, non è come è successo l'altra volta che uno ha preso e ci ha messo un giubbotto, dopodiché su Facebook, dopodiché ha preso e si è venduto su marketplace, capito? Io non sono di quelli, tu mi conosci, tutto lì, io se una cosa la tengo e basta, non è che vada a vendermela. C'è parecchia gente che fa così, ma io non sono di quelli, grazie a Dio, non sono un infame così e non sono uno stronzo così, il discorso è quello, perché io gli amici ci tengo, tutto lì, da 30 anni, forse anche di più, tutto lì, il discorso è quello lì. C'è gente purtroppo che su Facebook ormai, questo periodo qui, perché c'è la crisi e cose del genere, si venderebbe anche la madre, non solo l'altro. Vabbè Antone, bastava un sì e un no, oggi sei molto polemico, dai, ci sentiamo in migliori occasioni, dai, che adesso esco, che forse la cagherebbe nel passato. Ciao Antone, buona serata. Ma sono di capo, poi dico, cazzo, sto parlando normalmente, cazzo, che c'è, boh. mi hai chiesto una cosa, non è che ti posso rispondere in 15 secondi, no, il discorso è quello lì. Comunque sia, se vuoi ti rispondo in 15 secondi, non c'è nessun problema. Non succede niente, non ti allarmare. Prova. Prova. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora.